temo dei nostri giorni sconvolti. Siamo tre in una e trina. Tre che parlano, ma nessuno che ascolti. E i giorni passano, bruciati e persi. Ma dimmi davvero che è tutto qua. Spiegami, è tutto qua. Un cerino acceso proiettato nel tempo. È tutto qua. Scrutano tre orizzonti cercando il futuro in un vento di tramontana. Ma prima lasciamo che il passato ci guardi come un'ipocrita puttana. E la fiammella ci consumi bruciando. Davvero è tutto qua. Spiegami, è tutto qua. Un cerino acceso proiettato nel tempo. È tutto qua. Dell'uomo, la solitudine nella maturità. Generazioni passano bruciate e perse. Ma dimmi davvero, è tutto qua. Spiegami che succede se tre cuori battono assieme lo stesso.